Allora, molto semplice il discorso in Ferrari, e se ci fosse ancora Enzo Ferrari darebbe la giusta direzione da percorrere. Licenziare Vettel immediatamente. Licenziare Vettel immediatamente. Come hanno fatto con Prost quando a suo tempo ha detto che era come un camion. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. E allora andiamo ai semafori, sui motori, 3, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio d'Austria che scatta adesso con buono spunto di Valtteri Bottas, con attenzione a Norris che prova a mettersi all'esterno di Max Verstappen, là dietro c'è traffico a 3. Riprende tutta la scia, dentro, dentro Charles, dentro Leclerc, staccata da paura, vediamo se ricompare intanto penalità per Lewis Hamilton, 5 secondi. Valtteri Bottas vince il Gran Premio d'Austria, seconda posizione per uno straordinario Charles Leclerc, incredibile prestazione di Leclerc, poi Hamilton che passerà terzo con la penalità, veloce. Norris calcolo, me sì. Facciamo il calcolo immediato, sì, Norris podio, wow. Norris podio per un decimo, super Norris, grazie Formula 1, ne avevamo voglia, abbiamo aspettato tanto. Sarà stata l'astinenza, ma ci siamo divertiti come bambini a vedere la prima corsa stagionale con Edoardo Lavezzari, che ringrazio, Roberta Frisani. Primo Bottas, secondo Leclerc, terzo Norris, quarto Lewis Hamilton, che è stato retrocesso in partenza per un reclamo, dicevo prima, molto malizioso della Red Bull, a mezz'ora dal via per una bandiera gialla non rispettata di Iris. Hamilton retrocesso, poi conflitto in pista con Albon sulla Red Bull residua, perché primo colpo di scena della stagione, dopo 11 giri si è tolto dalla corsa, è uscito dalla corsa Max Verstappen perché ha rotto la macchina. Ebbene, Hamilton retrocesso di 5 secondi, dunque secondo Leclerc, terzo Norris, quarto un arrabbiatissimo, immagino, Lewis Hamilton, e una corsa che ci fa venire voglia di vedere subito la prossima. Ciao direttore Umberto Zappelloni. Ciao. Carlo, hai detto bene, la Formula 1 ci è mancata e oggi ci ha divertito perché alla fine, negli ultimi giri, abbiamo visto una gara che è quella che aspettavamo da tempo, insomma, sì. Con un colpo di scena dietro l'altro, sì. Commissari assurdi dal mio punto di vista, perché anche per me non so io che immagini hanno visto ieri, perché metterci 24 ore per penalizzare Hamilton è allucinante. E penalizzarlo anche per l'incidente con Albon, sinceramente, vedendo le immagini che lui non muove il volante verso il suo avversario, mi sembra una cosa un po' allucinante. Questo... Comunque tanto meglio per la Ferrari, direi, perché il secondo posto di Leclerc è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Lui è stato bravissimo con due sorpassi nel finale. Ma questo cosa fa? Aumenta i rimpianti, perché date a quel pilota lì una Ferrari che sia una Ferrari, e vedete cosa vi può combinare. Sì, tanto più che questo altro tema, Vettel decimo, gara pessima quella di Sebastian Vettel. Saluto Giancarlo Minardi. Ciao Giancarlo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, dammi una lettura di questa gara. C'è tantissimo Leclerc in quel secondo posto di una Ferrari che probabilmente in questo momento non è la seconda migliore macchina del lotto. Hamilton penalizzato due volte, e torniamo al vecchio discorso: in pista vogliamo vedere dell'agonismo e delle battaglie. Questa è una storia che ci tiriamo dietro da un po'. E Norris terzo, grande gara, da dove vuoi partire? O Hamilton o Vettel pessimo oggi, così come pessimo era stato venerdì con quelle dichiarazioni. Ma io credo che si debba fare un'analisi. Fortuna, strategia, è un grandissimo pilota, hanno cambiato quello che è stato un sabato nerissimo per la Ferrari, e non ce lo dobbiamo dimenticare, perché ci sarà molto lavoro da fare. L'abbiamo visto anche oggi in gara, guardando il board camera, la difficoltà che hanno avuto tutte le vetture motorizzate Ferrari, soprattutto nei rettilinei. Quindi la differenza che c'è tra le prestazioni dello scorso anno e quest'anno è evidente, e purtroppo penso che sia molto, non solo di telaio, ma molto di motore. Lo dimostra il fatto che Leclerc di telaio, in un momento dove le prestazioni dei motori, anche degli avversari, calavano per questioni di temperatura, per questioni di strategie, Leclerc aveva fatto un tiro sotto l'1.08. Quindi vuol dire che purtroppo, perché con le regole che sono in vigore oggi, non so quanto ed è stato omologato questo motore per il resto della stagione, non so quanto sia fattibile, se non inventandosi un grande telaio dall'Ungheria in avanti. Detto questo, non c'è da, credo che Leclerc abbia fatto vedere quello che è capace di fare, quindi bisogna dargli solo la macchina per farlo vincere. Purtroppo si è riconfermato un Vettel che combina degli errori nei momenti più strani e più sotto pressione, e un Hamilton che stranamente, al di là della discutibile conduzione della direzione di gara, ha comunque commesso degli errori in questo weekend che non è da lui. Per cui 5 safety car, tanti errori, qualche problema di affidabilità, era un pezzo che non vedevamo 11 macchine sole al traguardo, quindi è partito col botto, se anche in ritardo questo campionato. Si è fatto aspettare, però ha già fatto divertire alla prima occasione. Voglio chiedere, devo essere sincero che sono stato preso da questo Gran Premio e ho sudato su quel poltrone come non mi capitava da tempo. Sarà che l'astinenza, mio caro, avevamo troppa voglia. Umberto, sei d'accordo con Giancarlo quando dice troppi errori per Hamilton in questo primo weekend? Sì, ha sbagliato qualcosina lui, però devo dire che i commissari ci hanno messo molto a rovinargli la gara. E per farlo partire quinto invece che secondo gli ha cambiato completamente le prospettive della gara, soprattutto a 40 minuti dalla via del Gran Premio. E poi secondo me anche l'incidente con Albon non è sinceramente tutta colpa sua. Lui ha provato ad attaccare, però questa è una pista in cui Bottas va particolarmente bene, e Bottas all'inizio dell'anno è sempre un po' meglio di lui. Non credo che possa essere un candidato per il mondiale, perché alla fine tra i due c'è una grande differenza, però ecco, è un Hamilton che forse ha avuto tantissime distrazioni, oggi forse era più focalizzato alla cerimonia pre-partenza che poi a tutto il resto, però poi lo abbiamo visto insomma spesso essere veloce, ha recuperato due posizioni subito, poi si è incollato a Bottas, ha cercato di avvicinarlo, e dalla Mercedes hanno dovuto richiamarlo un paio di volte, perché alla fine la affidabilità della Mercedes non era al 1000 per 1000, insomma, con una Ferrari come quella dell'anno scorso che metteva pressione alla Mercedes sarebbe stata una gara diversa, però la Ferrari di quest'anno aveva 9 decimi di più lenta rispetto a quella dell'anno scorso, e questo è qualcosa di inspiegabile. Sì, la fotografia credo sia la gara pessima da dimenticare subito di Vettel, che è finito decimo dietro a Giovinazzi, grande gara la sua peraltro, nono. E prima di salutare Giancarlo Minardi, poi affrontiamo di nuovo tutti questi temi con Umberto Zappelloni e con voi se volete, 800 24 00 24, numero verde. Allora Giancarlo, Vettel che il venerdì fa quella conferenza stampa, diciamo destabilizzante, probabilmente fuori tempo e fuori luogo in questo momento, con una Ferrari che comincia la stagione ad handicap e con una macchina che non va. Oggi corre al contrario, in tutta onestà, perché lui sì non ne ha combinata una giusta. Ora è facile sparare sulla Croce Rossa in questo momento, gli ascoltatori l'hanno già fatto, però è difficile anche assolverlo. Ma assolverlo credo che sia difficile e impossibile, nel senso che anche la conferenza stampa dell'altro giorno, io sono andato a vedermi un mese fa, tra virgolette c'erano altre frasi da fare. Bravo, esatto. Quindi esatto. O sono state interpretate male o sono state riportate male, ma non credo. E no, vabbè, era lì da sentire. Ecco, quindi io credo che, non so per quale motivo sia uscito dai binari, probabilmente è il Vettel che dal luglio del 2018 ha cominciato a sfarfalare un po' e continua a farlo. Riguardo invece a Hamilton, purtroppo sotto pressione qualche errore lo fa, probabilmente, come diceva Umberto, siamo all'inizio della stagione e lui è sempre stato un po' più lento a mettersi in moto rispetto ai suoi compagni di squadra e gli altri, però comunque in questo weekend sotto pressione ha sbagliato, per cui certamente vincerà il mondiale lui, la Mercedes ha una marcia in più, lo dimostra i giri veloci che hanno fatto Bottas in particolare dal 32esimo al 39esimo giro, è stato un inizio di gara a dei ritmi dove gli avversari, escluso le due Mercedes, viaggiavano oltre un secondo da loro, quindi le cinque safety car hanno mitigato quello che è il vantaggio Mercedes. Abbiamo 5 giorni, poi speriamo di divertirci ancora come ci siamo divertiti oggi. Grazie Giancarlo, abbraccio. Ciao, grazie a voi. Ciao Umberto, stai con me, sentiamo il traffico, poi voglio sentire la tua su Sebastian Vettel, su questo tema che è in tema all'ordine del giorno chiaramente. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. 800 24 00 24. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Tutti convocati. Però a due secondi, attenzione, attenzione, colpo di scena, primo grande, clamoroso, colpo di scena, Max Verstappen non va, la spinge, non va. Questo accadeva al giro numero 11, quando Verstappen era in lotta con le due Mercedes. Ora io dico, Umberto Zappelloni, piano con gli entusiasmi dettati da questa pazzesca gara di Carletto Leclerc, da quello che è successo, dalle penalità eccetera. Onestamente la Ferrari in questo momento non è la seconda macchina, forse nemmeno la terza, visto come è andata oggi la McLaren, dunque abbassiamo la cresta, soprattutto abbassiamo la cresta guardando e leggendo, Umberto, e qui voglio la tua opinione, il weekend di Sebastian Vettel a partire dal venerdì. Mi aspettavo un weekend diverso, perché mi aspettavo un Vettel professionista fino in fondo, un Vettel che cercasse da questa sua ultima stagione in rosso un riscatto, la voglia di lasciare un segno positivo ai suoi tifosi, che comunque sono tanti in Italia tra i ferraristi. Invece prima ha fatto quelle dichiarazioni che hanno decisamente stupito, hanno raccontato la verità, però erano sinceramente non aggiungevano nulla al panorama e soprattutto andavano un po' a contraddire quelle che erano le sue dichiarazioni ufficiali rilasciate quando la Ferrari ha annunciato il suo licenziamento. E poi oggi in gara è stato abbastanza offuscato, insomma, sempre lontano dal suo compagno di squadra, poi con l'incidente con Sainz, insomma, i commissari hanno giudicato incolpevole sia uno che l'altro, però lui lì ha peccato un po' di un errorino, io l'ho visto da parte sua, perché lì poteva evitare di andare a toccarsi con il suo, con quello che gli ha portato via il posto nei conti. La speranza è che si sia fatto trascinare sul fondo da questa Ferrari deprimente, perché la Ferrari, abbiamo visto per tutta la prima parte della gara, deprimente, non riusciva a reggere il ritmo non solo quello delle Mercedes, ma anche quello delle Red Bull, fino a che sono rimaste in pista, ma anche delle Racing Point e delle McLaren soprattutto. Poi Leclerc però è riuscito a estrarre da una Ferrari deprimente un capolavoro. Lui è fondato completamente, e la differenza tra i due è quella che abbiamo visto negli anni scorsi, come diceva prima Giancarlo Minardi, è da quel maledetto Gran Premio di Germania di 2 anni fa che Vettel non è più quello di prima, quello che aveva fatto sognare i tifosi della Ferrari. E quindi io credo che oggi noi abbiamo avuto la conferma che almeno su questo Binotto ha fatto la scelta giusta, almeno su questo, perché sul resto, su come questa Ferrari sta affrontando questa stagione, abbiamo ancora qualche dubbio, nonostante il grandissimo risultato di oggi grazie a Charles. Sì, che è un po' uno specchio deformante della realtà. Arriveranno modifiche, sono state annunciate modifiche, quindi aggiornamenti in Ungheria, in questo mondiale stranissimo, è quasi inutile ricordarlo, in cui abbiamo preso il mare oggi senza vedere l'altra costa, perché il calendario è in fase di composizione. Ora ci si può domandare tutti insieme, ma è possibile arrivare alla prima gara in queste condizioni riferito alla Ferrari? No, non è possibile, perché vuol dire aver sbagliato completamente il progetto, insomma, essere arrivati a Barcellona e accorgersi di essere così in ritardo, anche se non ci si aspettava così tanto in ritardo, è comunque clamoroso per un'azienda come la Ferrari, soprattutto per come si era chiusa la stagione scorsa, perché la Ferrari, non ricordiamo, ha vinto 3 gare di prepotenza a Belgio, Monza e poi a Singapore. Però tutto questo ci lascia pensare sulle accuse che sono state portate alla Ferrari un anno fa sul motore, che da quel momento la Ferrari ha dovuto cambiare qualcosa e è mancato molto il motore. Binotto ha ripetuto che più del 60% dei problemi di questa Ferrari sono dovuti al motore. Lo si sentiva in telecronaca il rumore, che solitamente è una musica, del motore Ferrari era qualcosa di insolitamente fiacco. E lo si è visto anche in certe fasi della gara, non riusciva a reggere veramente la race point. E lì non è soltanto un problema di aerodinamica o di telaio, c'è sicuramente un problema di cavalli, come dimostra anche la mancanza di prestazioni delle altre motorizzate Ferrari, perché anche Alfa Romeo e Haas non sono praticamente esistite in questo weekend. E la sensazione che l'anno scorso sia stato fatto qualcosa di decisamente irregolare, che la Ferrari avrebbe dovuto fare un passo indietro per tornare nelle regole e quindi scendere molto di motore, ce l'abbiamo fino alla prova contraria. Sì, tant'è vero che oggi, diciamo, Verstappen all'11° giro si è elevato dai giochi e Albon ha avuto quel contatto con Hamilton e è scivolato in fondo, altrimenti, nonostante i miracoli di Carletto, non so se saremmo arrivati ad essere così contenti dopo la prima gara stagionale con il podio. Sì, siamo molto più contenti di quello che mai avremmo pensato di poter essere, soprattutto viste i primi 60 giri di questa gara. Non dobbiamo illuderci che questa sia la vera Ferrari. C'è da dire che la mancanza di affidabilità di tutti quelli che sono davanti lascia comunque aperto un mondiale che sarà più breve del previsto, però in cui ottenere dei risultati, anche quando non si ha una macchina vincente come era oggi la Ferrari, può risultare pesantissimo alla fine della stagione. E almeno l'affidabilità da parte di Leclerc e anche di Vettel, pur essendo arrivato lontanissimo, c'è, e quindi questo è qualcosa di positivo. Senti Umberto, voglio rubarti anche un commento sul Milan, perché tra poco parliamo di calcio, ma prima, per introdurre l'argomento, collegamento con Dario Ricci che è a San Siro per Inter Bologna. Ciao Dario. Ciao Carlo, ben ritrovati. Siamo al 10° di gioco qui a San Siro, 0-0 tra Inter Bologna. Finora nessuna emozione se non quella di vedere di nuovo a San Siro Sinisa Mihajlovic, che ha fittamente parlottato con Antonio Conte prima dell'inizio. Intanto seguiamo questa azione con Young che prova ad accentrarsi, Gagliardini sponda centro area rosso-blu, c'è il fallo di Brozovic rientrante oggi dopo i problemi fisici noti e calcio di punizione per il Bologna. Per quanto riguarda le formazioni, appunto, nell'Inter ve le leggo rapidamente: Handanovic in porta, D'Ambrosio, e questa è la prima sorpresa perché era atteso Godin, De Vrij e Bastoni in difesa, Candreva, Gagliardini, la conferma da titolare al centrocampo del numero 5 è la seconda scelta sorprendente parzialmente sorprendente di Conte, al posto del previsto Barella, poi Brozovic e Young ed Eriksen a supporto di Lukaku e Lautaro. Per quanto riguarda il Bologna, Skorupski in porta, difesa a 3 con Tomiyasu, Danilo e Denswil, centrocampo a 5 con Dykes, Skouten, Dominguez, Soriano e Orsolini e Sansone e Barolo di punta, anche se di fatto i felsini ripiegano spesso su un 4-2-3-1 in cui è Skouten in particolare a prendersi cura di Eriksen. Adesso un retropassaggio di Dykes, che quasi a momenti metteva in difficoltà Skorupski, che si è salvato con una respinta provvidenziale di piede. 11° di gioco, Carlo, 0-0 ancora, certo. Qui Candreva prova incursione, chiude Dominguez e riparte il Bologna. Ma noi staremo collegati per tutto questo programma. Umberto Zappelloni, invece, volevo rubare altre due pennellate, una in nero e l'altra in rosso nero. Quella in nero riguarda sempre la Formula 1 e quella diapositiva che abbiamo visto prima della corsa, con i piloti vestiti di nero e guidati da Lewis Hamilton inginocchiati per ben noti motivi di protesta. Leclerc, che invece insieme ad altri sta in piedi dietro di loro, poi fa un tweet in cui dice: beh, a me non va di inginocchiarmi, di fare così, le mie idee sono chiare, sono d'accordo con loro, ma lo documento nella mia vita di tutti i giorni. Come valuti questa onda nera della Formula 1, Umberto? Ah, non, mi sembra che non sia soltanto della Formula 1, sia un momento particolare di tutto il mondo. Insomma, vediamo gente che va a tirare giù la statua di Indro Montanelli o quasi, quindi questo mi lascia molto perplesso. Io credo che sia giusto combattere il razzismo, sia ancora assurdo trovarsi a parlare di razzismo oggi come oggi nel 2020. Poi ognuno reagisce come vuole. Leclerc, tanto di cappello, lui sicuramente ha un comportamento che non può essere messo sotto accusa, ma preferisce comportarsi a modo suo, certo, non gli vanno inginocchiarsi, certo. Ha messo la sua bella maglietta nera, ha comunque aderito alla manifestazione contro il razzismo indetta da Lewis Hamilton e dalla Formula 1, però lo ha fatto a modo suo, tanto di cappello, perché non si è omologato al resto del mondo. Io credo ha fatto quello che si sentiva, ed è giusto comportarsi così. Io credo che poi in questo politica è correct oggi si cerchi sempre l'esagerazione, insomma, perché ecco, non vorrei che tu scadesse nel ridicolo. Io dico che è assolutamente giusto parlare contro i razzisti ancora oggi nel 2020, però ecco, non esageriamo a cercare di fare delle mosse spettacolo a tutti i costi. Insomma, ognuno può anche comportarsi in modo giusto e andare contro certe cose senza alzare i pugni o senza mettersi in ginocchio. Lo dice giustamente Leclerc, con il comportamento di tutti i giorni si può comunque fare molto contro il razzismo anche senza andare in piano. Per chiudere, mescoliamo. Hamilton ha un altro modo di vedere le cose. Anche lì sono scelte individuali, certo, ma anche lì sono scelte individuali, legittime tutte e due e apprezzabili entrambe. Assolutamente, sono d'accordo con te. Per chiudere questa chiacchiera, mescoliamo il rosso e il nero. Il Milan che regala la Juventus lo scudetto ci sta come titolo? No, perché il Milan batterà anche la Juventus martedì sera. No, scherzi a parte, ieri ho visto il miglior Milan della stagione, sorprendente come la Ferrari di oggi. Però la differenza è che il Milan ha meritato di vincere, la Ferrari il secondo posto di oggi forse non l'ha meritato fino in fondo. Il Milan era meritato perché ha giocato con una concretezza, con una compattezza, con una concentrazione che non si era mai vista durante tutta la stagione. Spietato là davanti, avrebbe anche voluto fare 4 gol contro una squadra che non aveva mai preso 3 gol quest'anno e non aveva mai perso in casa in questa stagione, ha fatto vedere il miglior Milan della stagione, e questo fa crescere i dubbi su quale può essere il futuro di questo Milan. È giusto continuare con Pioli o andare a prendere Raghi? Intanto rafforza le certezze sullo splendido comportamento. Parlavamo prima di tutt'altri comportamenti, di tutt'altra storia, però rafforza, secondo me, il pregio del comportamento di questo gruppo, a cominciare da Pioli. Assolutamente. E poi io vorrei dire a chi decide oggi al Milan: avete visto come ha giocato ieri Zlatan Ibrahimovic? Siamo sicuri che sia troppo vecchio, che a questo Milan non serva una persona con quella personalità in mezzo al campo? Io non ne sono convinto. Io uno come Zlatan lo terrei tutta la vita, almeno per un altro anno. Grazie Umberto. Grazie alla a voi. Prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao direttore. Prima di fermarci un attimo, Dario Ricci, dammi un flash da San Siro, ci sei? 15° di gioco, sì Carlo, presente. 0-0 tra Inter e Bologna, è arrivato anche un gol, quello di Lukaku 3 minuti fa, ma evidente il controllo, il tocco con un braccio da parte dell'attaccante belga su pressione di Danilo, quindi giusto l'annullamento. E da quello stesso Danilo, proprio pochi istanti fa, mentre entravamo in collegamento, è stato ammonito per un fallo su Lautaro Martinez all'altezza del centrocampo. Per il resto niente da segnalare, 16° di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Bologna. Caldo pazzesco oggi a Milano, Sì, insomma, diciamo che il desiderio è quello di una birra fresca, però mi trattengo niente, cerco di essere professionale, fidatevi, ecco. Allora, fermiamoci un istante, ma torniamo subito. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Va Ronaldo! Eccola la prima punizione in bianco-nero. Il gol del 3-1 è una pennellata. Ma ma dal punto di vista della qualità del gioco penso che siamo in buona crescita e abbiamo ripetuto una buona partita. Dal punto di vista tattico abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel rimanere compatti e corti, però questo ci sta giocando di pomeriggio, che la stanchezza arrivi un po' prima. Palla per Bonaventura, Lukaku in pressione su di lui, ancora Bonaventura che cerca un corridoio, alla fine lo trova, occhio al piazzato, 3-0 Rebic. Una sconfitta che pesa per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda la nostra rincorsa, ma sappiamo, insomma, avevamo delle difficoltà oggettive, in più secondo me non siamo neanche stati fortunatissimi negli episodi chiave, nel cercare, insomma, di far girare gli episodi a nostro favore. Allora, questo è il tema, ma prima la cronaca, c'è una novità a San Siro, Dario Ricci. Sì, 23esimo di gioco e da poco meno di un minuto l'Inter è in vantaggio, c'è stata una bella percussione sulla sinistra del solito Young, il cross a centro area, Lautaro che ha anticipato di testa il proprio marcatore, ma il pallone è schizzato sul palo, sul rimpallo tutto solo Lukaku è stato pronto ad agganciare il pallone e a battere Skorupski, un Inter che quindi è in vantaggio per 1-0, Inter che del resto finora ha battuto ben 4 calci d'angolo, quindi ha aumentato progressivamente la pressione verso l'area bolognese che ha trovato ora il vantaggio. Di contro, tra pochi istanti ci sarà il primo calcio d'angolo per il Bologna sul pallone Orsolini. Carlo, comunque 23esimo di gioco, 24esimo in questo istante, Inter 1 Bologna 0, 20esimo gol di Lukaku. Benissimo Dario, allora beh, naturalmente da domenica prossima tornerà Giovanni Capuano che è in vacanza, lo salutiamo, intanto c'è Pierluigi Pardo, ciao Pier. C'è, ci sarà. Ma c'è ci sono, cioè, sono qua, ecco, sono qua. Eccolo. Ci sono, ho sentito un tong preoccupante. No, ma comunque ti chiedo tra un istante Radio Twitch il tempo di salutare, mi è mancato un sacco, perché tanto non lo sento, mio amico Michele Plastino, direttore Radio Sportiva. Ciao Michele. Un abbraccio a tutte e due e ti ringrazio per la bella parola. Perdonami se magari non è il giorno giusto, magari, però tra poco ne parliamo. Pierluigi, Radio Tweet domenicale? Ma io darei altri 7 giorni al campionato, adesso lungamente, nel senso che quello che è successo ieri sembra uno strappo definitivo, ma è anche vero che siamo alla vigilia della settimana più importante, scontro diretto escluso, e quindi insomma fra una settimana ci troviamo tutti qui alle ore 18 e secondo me avremo un quadro un po' più preciso e capiremo se c'è ancora una lotta a scudetto oppure no. Certo, ieri sono successe delle cose importanti, oggi pomeriggio l'Inter può fare delle cose importanti, però insomma secondo me è la settimana più calda del campionato e quindi insomma ci sono ancora dei margini, anche se certamente ieri è stato uno snodo cruciale. Sì, Michele, glieli diamo 7 giorni al campionato? Guarda, ti faccio guadagnare tempo che in radio è prezioso, perché sono totalmente d'accordo con Pier, quindi avrei detto la stessa cosa. Ti ha deluso la Lazio di ieri sera? Ma no, nel senso che sai, è una conferma sulle qualità soprattutto numeriche delle rose, anche perché io non sono tra quelli che dice che la Lazio non era all'altezza come rosa in generale per contrastare la Juve in questo periodo, però sai, quando proprio nello stesso ruolo ti mancano due persone decisive, cioè non c'è il titolare, non c'è il sostituto, devi rivoluzionare tante cose, quindi poteva esserci questa sconfitta, poteva esserci. Pierluigi, sta nelle assenze la spiegazione? Nelle assenze, sta nella rosa più corta rispetto agli altri, sta nel fatto che Inzaghi negli ultimi giorni sta facendo veramente, sta contando i giocatori, sta chiedendo dei sacrifici, insomma Decani è ieri appena recuperato, buttato in campo, Correa l'altro giorno si è dovuto fare un pezzo di partita, insomma cioè, sta veramente Leiva che è appena rientrato, gioca, però chiaramente non può avere più di 45 minuti nelle gambe, insomma è tutta una situazione che riguarda anche altri club, perché carità, però sicuramente se c'è un aspetto, e questo lo diciamo da subito, nel quale la Lazio era inferiore alla Juve, direi anche all'Inter, è la profondità della rosa. Il lockdown ha cambiato tutto, cioè noi siamo passati da una situazione in cui la Lazio aveva il vantaggio di giocare unica delle tre, una partita a settimana e tutto, quindi poter preparare ogni partita, a una situazione in cui invece non solo non ha più questo vantaggio, ma si gioca ogni 3 giorni e l'aspetto fisico è fondamentale. E poi vale per per tutti, per carità, però è oggettivamente un cambio di scenario e si cominciano a vedere gli effetti di questa situazione. Poi ieri mi ha un po' deluso, sì, mi ha un po' deluso un po' la mancanza di reazione. La Lazio mille volte era andata in difficoltà in questa stagione e aveva mostrato proprio una resilienza incredibile, una capacità di rimanere sempre molto lucida. Ieri non l'ha avuta, anche per merito del Milan, che ieri mi ha impressionato, e adesso questo Milan-Juve senza Dybala e De Ligt mi intriga molto. Sì, molto intrigante, però Michele, rimane comunque la sensazione di fondo che, al di là delle assenze pesantissime, non c'è dubbio, non sia forse neanche più dal punto di vista fisico la Lazio che avevamo lasciato. Ma sai, quella del punto fisico, dal punto di vista fisico non sono totalmente d'accordo, perché anzi io ricordo il trend di Inzaghi, le sue squadre, la Lazio soprattutto, ha sempre un po' subito il finale, quindi avendo avuto la possibilità del forzato riposo pensavo che da questo punto di vista potesse essere l'unico punto di vantaggio rispetto purtroppo al Covid. In realtà probabilmente non è così, perché poi va bene, sono successi anche degli episodi sfortunati, come appunto quello di una serie di infortuni direi non previsti. E aggiungo anch'io, in relazione a quello che diceva Pier, da non sottovalutare questo Milan, a cui Pioli ha dato grande compattezza. È un grande merito dell'allenatore del Milan quello di avere una squadra che ha ritrovato appartenenza, ha ritrovato coesione, e per questo è dura anche per la Juve la partita con il Milan, a mio avviso. Michele, so che tu sei appassionato di giochi mentali, no? della psiche dei giocatori. Come immagini la Lazio, la testa della Lazio oggi? Cioè, ci può essere il pensiero di continuare la rincorsa o c'è il pericolo che si stacchi la corrente? No, la Lazio da questo punto di vista ha sempre dimostrato forza psicologica, sia per le rimonte, sia per le avversità. Sì. Inzaghi gliel'ha data questa la Lazio, quindi io credo, come avete detto voi prima, cioè che è questa la settimana veramente decisiva per magari tentare di ridurre e poi arrivare allo scontro diretto, dando un'occhiata anche alle spalle, perché c'è l'Inter che incalza. Però no, io non credo che la Lazio stacchi la spina. Poi può perdere, può vincere, questo non fa parte del gioco, però non credo allo staccare della spina collettivo, nel senso che Inzaghi ha dato una psicologia di gruppo molto forte e anche autostima. Allora, fermiamoci un istante per il traffico, rimani con noi qualche altro minuto, Michele, va bene? Anche perché sono curioso di sentire la tua opinione sui competitors, cioè quelli che giocano col Milan al prossimo giro, che non avranno Dybala, perché altrimenti si parte da 1-0 scritto sul tabellone in questo periodo ogni volta, e che però sembrano aver trovato insomma qualcosa di più grande rispetto alla ripresa dei giochi dopo il Covid. I love this game. Tutti convocati. Io ti conosco. Sole o pioggia, tu al lavoro ci vai in moto. E quanto ami muoverti in monopattino, anche se tutti ti dicono che, dai, hai un'età. È d'accordo, l'auto è comoda, ma per te parcheggiare la bici è un'altra storia. Ti conosco. Hai tanti modi diversi per muoverti. Sono il tuo agente generale e cerco ogni giorno la soluzione giusta per te con passione. Scegli Immagina Strade Nuove, l'assicurazione auto che protegge i tuoi spostamenti su ogni mezzo. Scopri di più in agenzia. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it. Generali, partner di vita. Tutti convocati. Spero che non pensi al record, però magari a un trofeo ci pensi. La Champions che manca, hai ancora un po' di tempo, sia questa che quella prossima, per provare a coronare una carriera comunque straordinaria. Beh, quello è un qualcosa, diciamo, non dico di più, però un qualcosa che alla fine ronza nella testa, perché è inevitabile che ci siamo andati talmente tante volte vicino che non averla acchiappata per le orecchie veramente è un dispiacere. Ronza per la testa non solo di Gigi Buffon. Pierluigi, sarai d'accordo se miglioriamo l'umore di Michele Plastino? Sì. Occhio. Zampini. Aspetta un attimo. Zampini. Aspetta, signor Zampini, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao. Corsa scudetto finita, vero? Ovviamente no, e tu lo sai qual è la mia risposta, ma è la verità, è molto superficiale, devo dire, lo trovo, perché soprattutto prima di questa settimana, cioè la Lazio si li ha persi i punti con Milan e Atalanta, la Juve che affronta Milan e Atalanta, quindi almeno aspettiamo il confronto con queste due squadre prima di dire a che punto siamo. Ti ha migliorato un po' l'umore, Michele? Oh no, ma io purtroppo devo dirti che con l'età e con tante vicende sono un po' disamorato, sono sempre innamorato del mio lavoro, su questo non c'è dubbio, ma su quello che riguarda proprio la passione stretta per le squadre, questo si è un po' ridotto nel tempo. Pier lo sa molto bene, Pier lo sa molto bene, però chiaramente seguo sempre con passione e con interesse, e la prossima partita la ritengo, quella della Juve, determinante, anche se io credo molto nella Juve, poi al di là di tutte quelle che sono le considerazioni, insomma, la Juve è la Juve, dai, cresciuta, ragazzi. Questo è il vero test, perché appunto la Juve è la Juve, e questo è oggettivo. Adesso nelle prossime due partite vedremo, è veramente il test, il massimo livello di difficoltà che ci può essere in questo momento, perché giocare contro il Milan senza quei due e giocare poi con l'Atalanta è il massimo livello di difficoltà che c'è. E quindi, insomma, io sono convinto, come dice Michele, che la Lazio non avrà grandi contraccolpi, perché ha dimostrato mille volte nella sua storia. Bisogna capire un po' l'aspetto fisico, Milinkovic, anche se il cambio Correa, cioè bisogna capire oggettivamente che Lazio sarà quella, certo, che vedremo con Lecce, certo, e col Sassuolo, certo. Però dal punto di vista psicologico, se c'è una squadra che ha dimostrato di reagire sempre è proprio la Lazio, e la Juve però è la Juve, e quindi è chiaro che se la Juve, cioè la Juve è una squadra che spesso ha dato la sensazione di fare quello che serviva, e poi però quando c'era da alzare l'asticella ci riusciva. Scusate, ecco, che mi sembra un po' più Juve di prima, Pierluigi, mi sembra ci sia un po' più di Juventus rispetto a 20 giorni fa. Ciao Michele, grazie, sì. A presto e buon lavoro sempre, grazie, a tutti. Grazie davvero. Ciao. Michele Plastino, c'è più Juventus, Massimo? Sì, c'è più Juventus. La Juve ha fatto, secondo me, a rientro, Coppa Italia a parte, ha fatto esattamente quello che doveva, non solo in termini di punti ma di crescita partita dopo partita. La Juve non doveva sbagliare Bologna, Lecce, Genoa e il derby di ieri, e quindi arrivare a questo Tour de Force nella situazione giusta di classifica, e così ci arriva. Ma io ho visto un miglioramento costante, la migliore secondo me è stata quella di Genova, dove ha veramente giocato bene, poteva fare 6-7 gol rischiando poco, però insomma strazi in tutte le partite le abbiamo viste. Con Lecce un brutto primo tempo, ma poi ha fatto 4 gol, ieri ne ha fatti 4 e comunque ha rischiato qualcosa, ma avrebbe potuto farne anche altri 2 o 3. È una squadra che sembra divertirsi molto di più, e poi Dybala e anche Ronaldo ogni partita si inventano qualcosa, pure questo aiuta parecchio. Sì, il tabellone è l'aspetto più eclatante, dicevamo, Pierluigi, perché la Juventus parte con scritto 2-0 là in alto, no? Con Dybala, Ronaldo, che è diventata una costante. A questo aggiungi che fa una fatica pazzesca a prendere gol. Sì, ha migliorato il passo, ha migliorato nettamente l'andatura, e cominciano a essere numeri statisticamente rilevanti, perché 4 partite, 4 vittorie, 13 gol fatti, 2 gol subiti, insomma comincia a essere parecchia robetta in senso positivo. Dybala è una chiave decisiva in questo momento, infatti è un'assenza che pesa tantissimo a San Siro. Ripeto, siamo alla vigilia di un doppio passaggio cruciale, e io credo che adesso la Juve abbia un bel vantaggio. Credo anche che se l'Inter dovesse vincere oggi, a questo punto bisogna in qualche modo reinserirla nel discorso, sia pure con una percentuale molto molto bassa, perché andrebbe almeno uno dalla Lazio. E però insomma è appunto, se la Juve è la Juve, in un modo o nell'altro queste due partite uscirà bene, uscirà con 4 punti, faccio per dirti. Se esce con 4 punti, anche ammesso che la Lazio e l'Inter vincano, insomma, scadono i 7 giorni di qui sopra. Manterrebbe un vantaggio. Poi c'è sempre lo scontro diretto, certo, ma dipende da come ci arrivi però, Pierluigi, perché certo, se ci arrivi a più 5, a più 6, Allora, prima di chiedere a Massimo Zampini un parere sull'Inter, sentiamo cosa sta facendo da Dario Ricci in diretta. 38esimo di gioco, l'incursione di Orsolini che va sulla linea di fondo, il cross, respinge Handanovic in angolo, Inter in vantaggio sempre per 1-0 grazie al gol di Lukaku al 22esimo. Da quel punto in avanti, Carlo, ne sono successe di cose, 2 ottime occasioni per i nerazzurri per il raddoppio. Al 28esimo Young, che sta devastando Tomiyasu sulla fascia sinistra, conclude di destro, miracolo di Skorupski. Al 32esimo è Danilo a chiudere miracolosamente, altrettanto miracolosamente su Lautaro, ma al 34esimo la grande grande occasione ce l'ha proprio il Bologna con Orsolini a tu per tu con Handanovic, e stavolta la risposta prodigiosa di piede in angolo è del capitano nerazzurro che salva la porta dei ragazzi di Conte. Quindi 38esimo di gioco, partita che si è aperta, un Mihajlovic che qualche istante fa ha allargato le braccia sconsolato di fronte all'ennesimo errore di palleggio dei suoi, che poi però comunque hanno prodotto quella interessantissima occasione che vi dicevo con Orsolini e con la respinta di Handanovic. 39esimo in questo istante, calcio d'angolo per il Bologna, 1-0 per l'Inter qui a San Siro. Io credo, a differenza della Juventus, l'Inter è una squadra che subisce tanto, subisce molti gol. Senza quel 3-3 con il Sassuolo forse farebbe un po' di più di così timore a Massimo Zampini. Sì, sì, è chiaro, ha perso quei due punti importanti, sono d'accordo con Pier che ormai 7-8 punti, insomma siamo lì, non ha lo scontro diretto certo l'Inter, che aiuta in una eventuale rincorsa, almeno quella speranza, e quindi deve praticamente la Juve deve perderne 3 e l'Inter vincerne 3, perché peraltro l'Inter c'ha lo scontro diretto sì, a sfavore, quindi gli 8 punti non basterebbero, quindi è sicuramente complicato, però l'Inter c'è, è un calendario nelle prossime 4-5, mentre la Juve potrebbe perdere tutto o vincere tutto, l'Inter ha tutto per avvicinarsi, e poi a quel punto non lo so, quindi l'Inter per me c'è. Io in questo momento vedo una buona Juve, mi conforta più questo al di là dei 7, 5, 8 punti, vedo una buona Juve. Sì, anch'io. Grazie Massimo, a presto. Grazie a voi, ciao. A presto, ciao. Massimo, dove è cresciuta la Juventus, Pierluigi? Poi ci fermiamo per il GR. Ma è cresciuta secondo me nello spirito di squadra, nella capacità di uscire dai momenti difficili. Non è stata in queste quattro partite sempre perfetta. Abbiamo sottolineato la brutta partenza con Lecce, ci sono state anche delle amnesie, anche ieri sul 2-1 non è che proprio mi facesse impazzire, però è normale, è fisiologico, sono tutte stanche le squadre. La Juve mi ha dato la sensazione in queste partite della forza dei campioni, che sanno che in alcuni momenti possono anche rallentare, possono anche concedere, però poi alla fine trovano le soluzioni. Ecco, quindi in questo mi sembra molto più sicura di prima, però ripeto, adesso c'è un doppio test, chi lo diceva prima, c'è il test con le due squadre che hanno fermato la Lazio, bravo, nelle ultime quattro giornate, quindi adesso è veramente la prova del nove. Guarda, secondo me sono le due squadre insieme al Napoli più in forma di questo spicchio strano di stagione. Fermiamoci per il giornale radio, poi sarà intervallo a San Siro, ci collegheremo con Dario Ricci che avrà un ospite, parleremo anche di Milan, insomma di tutti questi temi anche con voi. 800 24 00 24 è il numero verde. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Solca le acque del lago scelto da Cristo per la sua ultima indimenticabile opera d'arte. Visita le cantine vinicole più rinomate d'Italia e scopri Monte Isola, la più grande isola lacustre d'Europa 100% carfree, su due ruote, a piedi o in barca. Lago d'Iseo e Franciacorta, la meta ideale per la tua prossima vacanza. Come prima, più di prima, t'amerò. Prima di rinnovare l'assicurazione auto, vai su prima.it e scopri se puoi risparmiare. Calcola un preventivo in 30 secondi e scegli la comodità del pagamento mensile. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Fai click su prima.it. Come prima, più di prima, t'amerò. Giovanni, 36 anni, industrial designer. Tra una casa bella fuori o fresca dentro? Io ho scelto Unico, il climatizzatore senza unità esterna. Perché non rinuncio allo spazio sul terrazzo per i miei aperitivi con gli amici. E dentro, con le sue linee originali, Unico è perfetto per la mia casa, dove forme, colori e materiali parlano di me. Unico, il climatizzatore senza unità esterna di Olympia Splendid. Tecnologia, design e made in Italy. Per una casa bella fuori e fresca dentro. Prodotto contenente gas fluorurato GVP2088. Sta per succedere una cosa meravigliosa. Aumentare l'efficienza energetico antisismica della tua casa potrebbe essere a costo zero. Registrati su bonuschiaro.it. Bonus Chiaro anticipa subito gli ecobonus a privati e imprese. Bonuschiaro.it. Buongiorno, servito? Sicuro. Per un rifornimento che ti dà sicurezza, fermati da Kuwait. Se sei cliente Star Kuwait, ogni 25 litri serviti di carburante hai in omaggio un gel mani igienizzante e la possibilità di attivare una polizza assicurativa che indennizza in caso di Covid. Offerta soggetta a restrizioni, valida fino al 31 luglio salvo proroghe. Verifica le condizioni prima di aderire all'offerta. Info e regolamento su Kuwait.it o sull'app Club Kuwait. Tutti convocati. Saluto Valeria Bernardi che è arrivata in regia. Ciao Valeria, restiamo sulla cronaca, Pierluigi Pardo naturalmente collegato, ma restiamo sulla cronaca tornando a San Siro, intervallo Dario Ricci con un ospite. Eccoci qua da San Siro, ricordiamo il parziale del primo tempo, 1-0 dell'Inter sul Bologna, rapidissimamente i dati salienti di questi primi 45 minuti e spiccioli, visto il cooling break del 25esimo minuto, la rete di Lukaku al 22esimo, bravo il belga a insaccare la respinta del palo dopo il colpo di testa di Lautaro Martinez, poi i due grandi occasioni per l'Inter al 28esimo con Young, bravissimo Skorupski a salvare in angolo, al 32esimo altrettanto bravo Danilo a chiudere sullo stesso Martinez, ma al 34esimo eccola la grande occasione per il Bologna che capita sul sinistro di Orsolini e questa volta il miracolo lo fa Handanovic deviando di piede in calcio d'angolo. Con me dovrebbe esserci, perché come sai Carlo siamo distanziati socialmente, ma credo che sia già in collegamento, Roberto Condi della Stampa. Presente Roberto, perfetto. Presente distanziato, perfetto. Ciao, allora, e allora è convocato, quindi tanto per completare i partecipi. Roberto, una curiosità, ma che dà l'idea di un primo tempo che si è aperto dopo il gol. Sul mio tabellino conto già ben 11 calci d'angolo, 6 per l'Inter e 5 per il Bologna. Vero? Stavano 4-0, però prima del gol stavano 4-0. Significa che poi, dopo le due occasioni seguite al gol di Lukaku che tu hai ricordato, il Bologna comunque si è fatto vivo, ha avuto quell'occasione di Orsolini deviato di piede da Handanovic, ha avuto dei corner sui quali Handanovic non è uscito bene una volta, insomma qualche pericolo l'ha creato, quindi partita ancora viva, immagino, anche perché poi con questo caldo secondo tempo sarà un'incognita più che mai, senza dimenticare che l'Inter è la quinta partita in 15 giorni, il Bologna la quarta in 12, quindi insomma poi tra tutte e due la prima partita alle 17:15. Che sensazione ti lascia, Roberto, l'Inter e come sta giocando Eriksen? Scusami? Che sensazioni ti lascia l'Inter dopo questo primo tempo e come sta giocando Eriksen? Allora, la cosa più brutta del primo tempo dell'Inter è Eriksen, tanto per cambiare, purtroppo dico per i tifosi interisti, che francamente si è visto pochissimo, è stato soffocato abbastanza, specie all'inizio da Skouten, così come gli era capitato nel Sassuolo da Magnanelli e a Parma da Scozzarella, quindi insomma non ha trovato mai un'idea, un guizzo vincente. La cosa più bella dell'Inter in un primo tempo che comunque magari anche paradossalmente mi è piaciuto globalmente più di quello troppo facile col Brescia di pochi giorni fa è stato il gol che è manifesto classico del puro stile contiano, cambio di campo tra i due esterni, Candreva a destra per Young da sinistra, stop, arresto sontuoso, bellissimo cross e poi la simbiosi, l'intesa tra i due attaccanti, anche se con la collaborazione fondamentale della difesa bolognese, soprattutto di Tens, è stato quasi comico nel movimento che dopo ha liberato Lukaku. Sì. Volevo chiedere a Pierluigi Pardo se nei 7 giorni del campionato ci metti dentro ancora anche l'Inter o è tardi? Beh, se l'Inter vince oggi, questo te lo posso dire per tre quarti d'ora, l'Inter vince oggi, credo anche numericamente, aritmeticamente va considerata, anche perché comunque una vittoria oggi sarebbe una dimostrazione di una continuità, di crescita, di risultati. Alcune cose l'Inter le sta sistemando, secondo me, gli esterni cominciano a essere realmente qualcosa di significativo. Io ho negli occhi Inter Brescia, ovviamente con la grande partita di Moses, al netto ovviamente di tutte le debolezze del Brescia, ma certo è chiaro che se c'è un campionato, ammesso che l'Inter vinca oggi, ripeto, ammesso non concesso perché mancano 45 minuti, se fai una tabellina con tutte le partite e ci metti dentro la Lazio, non puoi non metterci l'Inter che avrebbe almeno uno dalla Lazio, anche se ovviamente lo scontro diretto è un vantaggio. È un vantaggio nel senso che sei padrone del tuo destino, è anche vero che l'Inter quella partita così complicata non ce l'ha, cioè ha già giocato sia con la Lazio che con la Juve, ma è vero che ha lo scontro diretto a sfavore, insomma dai, se vogliamo giocare un po' 65-20-15, una cosa, sì, del genere, vabbè, sì, però ripeto, sì, se l'Inter vince oggi, se la vince oggi le probabilità sarebbero veramente... Sì. Certo che ci sono tre partite di differenza, però, cioè, di fatto, gli otto punti di stacco più gli scontri diretti vuol dire che l'Inter deve fare nove punti in più della Juve in otto giornate. Sì, allora, poi. Sì, se non ci fossero Milan e Atalanta nelle prossime due partite, questa doppia squalifica della Juve, probabilmente parleremmo già di campionato chiuso, anche perché poi qui la squadra che ha il vantaggio e che ha la tendenza alla crescita è la squadra che ha vinto gli ultimi campionati, quindi è la squadra che per definizione, per maturità, per esperienza, anche per profondità della rosa, la risposta di tutte, quindi è anche più, no, quando se va in fuga lo sfidante, magari puoi pensare che gli venga il braccino, che non sa che gestire. Se va in fuga il campione è conclamato, è più difficile che si incarti. Certo, quindi, però certo. Ecco, sono due passaggi per calendari tantissimi, quindi sì. Io credo che si debba ancora tenere vivo il campionato. Se l'Inter dovesse vincere oggi, sì, serve qualcosa di oggi impronosticabile. D'altra parte, torno da Dario Ricci, poi chiudiamo con Roberto. L'Inter ha una certezza che è Lukaku, sempre lui, e qualche dubbio, perché mi sembra che dietro conceda ancora parecchio. Sì, dietro, diciamo, il punto debole che viene spesso battezzato a torto ragione è Bastoni, no? Oggi proprio su quel lato sta sviluppando una partita tattica molto interessante, perché Young sta abusando di Tomiyasu, però dall'altra parte Orsolini ha progressivamente guadagnato spazio, e non a caso proprio sul suo piede, e mettendo spesso in difficoltà Bastoni, come già era capitato col Sassuolo, è capitato all'Inter deve chiudere l'occasione migliore. Eh sì. Ah beh, quello è sicuro, Inter, perché sennò gli viene voglia. Cioè, l'Inter ha concesso la palla gol pure al Brescia l'altro giorno, lo 0-0. Cioè, è una squadra che secondo me sta recuperando tanto adesso in termini di qualità offensiva e di proposizione, però che qualcosa di concede sempre, per cui soprattutto in una giornata così calda deve chiudere la partita. Sì, non trovi che sia strano, Roberto, questo essere così permissiva di una squadra di Conte? Eh beh, certo, è un po' quello che si dice da un po' di tempo a questa parte. Insomma, d'altra parte, se Andanovic, lasciamo perdere poi la parentesi padelliana, però Andanovic ha preso gol per 11 partite di fila, non per colpe sue, ecco, ma perché comunque chi gli stava davanti aveva concesso. Insomma, la stabilità e l'equilibrio che Conte invocava fin dalla conferenza stampa di un anno fa meno due giorni, 7 luglio 2019, diciamo che francamente nell'Inter si è vista forse un po' l'inizio, poi dopo è tornata, come abbiamo scritto e detto più volte in queste ultime partite, abbastanza pazza, anche se poi dopo, tornando a quello che si diceva, francamente penso che il fattore di una banalità, lo so, però adesso entriamo veramente dopo le prime 4-5 partite che si possono anche essere state giocate sull'abbrivio e l'entusiasmo del ritorno in campo, adesso presenterà conto a tutti questi giocarne 3 giorni, quindi potrebbero capitare anche cose che magari impronosticabili non sono successe. Esatto, secondo me sì, questo sarà il fattore determinante delle prossime giornate, sì, dalla prossima in poi. Certo, ma ha ragione Pierluigi, insomma i prossimi 7 giorni sono cruciali per dare un aspetto che sia quasi definitivo alla classifica, davanti come dietro. Grazie Roberto, grazie Dario, a te. Grazie dopo, perché ciao. Seguiamo insieme il secondo tempo, naturalmente. Traffico, torniamo e parliamo di Milan. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24 tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Se la sportività che cerchi in un'auto non è solo parcheggiare sul marciapiede, se la tranquillità del divano è l'ultima cosa a cui pensi quando sali a bordo, se cerchi sempre qualcosa che non si confonda con gli altri, per te è arrivata nuova Seat Leon, sportiva, connessa, ibrida. Oggi con un nuovo design e l'esclusivo Seat Light Concept. Fari full LED, illuminazione interna a LED intelligente e personalizzabile e LED posteriore cost to cost. Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce. Tua da 19.500 euro. Scoprila su seatitalia.it. Convocati. Abbiamo delle situazioni anche individuali non facili, con parecchi giocatori che hanno firmato l'estensione del contratto, ma che probabilmente poi forse non verranno confermati, ma proprio dai loro atteggiamenti, dalla loro volontà, dalla loro serietà e dal loro orgoglio di dimostrare che sono ancora giocatori di un certo livello, dobbiamo trarre tutte queste situazioni positive e portarle avanti. Abbiamo le prossime partite molto difficili e dobbiamo concentrarci su questo. Poi io dico sempre che le somme si tirano alla fine, quindi non è il momento né di esultare né di essere troppo felici, ma nemmeno tristi, ma pensare solamente con grande convinzione alla prossima partita. Ecco, argomento Milan che trovo molto interessante, ma partirei dalle sensazioni di Pierluigi Pardo dalla gabina di commento da Zoni ieri sera. Che impressione ti ha fatto il Milan? No, mi ha fatto una grande impressione. Una grande impressione di una squadra che la partita è stata equilibrata per un quarto, per 23 minuti. È equilibrata, pur bloccata, pur un po' bruttina. Poi, dopo il gol del vantaggio, mi sembra che il Milan abbia dominato mentalmente la partita. Cioè, al di là delle occasioni, ha dato una sensazione di controllo, di gestione del pallone, di possesso palla. E anche qui bisogna capire quanto fosse stanca la Lazio e in difficoltà, però in casa della Lazio non aveva vinto nessuno in tutto l'anno, 11 gol subiti, 41 gol fatti prima di ieri. Nelle ultime 9 partite in casa la Lazio ne aveva subiti solo 5, mai più di uno a partita. Ieri ne ha presi 3 e se ne è mangiati un altro paio il Milan, quindi veramente è stato impressionante. E bisogna capire, secondo me, se ci sarà continuità, nel senso che mi sembra un po' un pazzo Milan. Però la tendenza dopo il lockdown è precisa. Sì. E soprattutto va sottolineato il lavoro di Pioli. Sì, perché sì, Pioli sì. Sta lavorando con una serietà incredibile, con voci di tutti i tipi, in una società con degli avvii molto probabili. Ti ricordi quando dopo la prima partita di Coppa Italia con la Juventus abbiamo usato la parola dignità, perché quella del Milan è stato un comportamento profondamente dignitoso, certo. Poi di più non poteva fare. Adesso mi sembra che ci sia addirittura qualcosa in più della dignità, perché vedi anche in campo delle cose che sottolineano in rosso il comportamento e l'atteggiamento, usiamo queste altre due parole, di questo gruppo. Carlo Spasserini, buongiorno. Ciao ragazzi. Condividi? Buongiorno a voi, buona domenica. No. È un altro Milan, sì, è un'altra squadra, ma si vede proprio, anche secondo me, anche dal linguaggio del corpo di molti giocatori. E io credo che ci sia molto di Ibrahimovic. Mi sembra evidente che l'impatto di Ibra sia enorme su questa squadra. Tecnico, ma soprattutto è l'energia che lui sta trasmettendo agli altri. Questo almeno anche quello che mi raccontano da Milanello. Ibra è un'altra cosa, e il Milan con Ibra è un'altra cosa. Sì, quando parte dalla panchina, come era successo con la Spal. Il fatto è che Pierluigi, noi abbiamo detto molte volte che il senso di questa stagione del Milan sta certamente nel provare ad andare in Europa League, perché il risultato, a questo punto, massimo possibile. Però il senso di questa stagione starebbe anche nel cercare indicazioni e mattoni che ti permettono di costruire il futuro. Però a quanto pare di mattoni che verranno utilizzati per il futuro ce n'è pochini. Pier? Pare come... No. Pier o Carlo? No, Pierluigi, volevo sentire, ma non lo trovo, e quindi giro a te la domanda, che tanto rimane valida, Carlo. Guarda... Il Milan continua a inanellare una rivoluzione dietro l'altra, e ad agosto ce ne sarà un'altra. Se mi chiedi se questo è un modo giusto di procedere, ti dico di no, perché i risultati lo dimostrano. Il Milan continua a ricostruirsi ogni anno, e ormai da anni è lontano da quegli obiettivi che una squadra come il Milan deve raggiungere. Quindi no. Chiaro che continuare a ricostruire non ha molto senso. Arriverà Rangnick, perché negli ultimi giorni io ho percepito un'accelerazione anche della trattativa che lo porterà. Insomma, mi sembra che si stia già stringendo, insomma, il cerchio. Però lui non vuole fare allenatore, giusto? Cioè arriva no, per fare... Questo... No, no, io non ne sono convinto. Io invece credo che farà anche l'allenatore. Credo che sia stata... Mi risulta sia stata una discussione, sul banco, ma il Milan non ha intenzione di pagare un altro allenatore. E questo è un argomento che è stato affrontato. Milan non ha tutta questa voglia di spendere altri 3 milioni magari per prendere un allenatore che va in panchina, certo. E poi fa i cambi che gli dice di fare, sì. Rangnick. Però caro, se ha detto anche, mi sembra anche sensato, certo, se ha detto anche, a questo punto magari Pioli potrebbe rimanere con Rangnick come superiore. Io non credo che a Pioli andrebbe bene una situazione di questo tipo. Allora, Pioli è un uomo pacato, saggio, e un aziendalista, usiamo il termine giusto perché è un allenatore aziendalista, ma anche io la penso come te, non sono così convinto che, per quanto aziendalista, per quanto sia quella persona che conosciamo abbia voglia di restare a dispetto dei santi, come direbbe Matarrese. Esatto, che semplicemente non c'ha voglia di andare magari in panchina a fare i cambi, ti tocca fare i cambi che ti dice lui, ecco, quindi la vedo difficile questa. Io credo che avremo Rangnick che farà l'allenatore, farà il manager e farà l'allenatore. Mi sembra che lo scenario che si sta prefigurando sia quello. Sì, e saranno anche le ultime partite di Ibra in rossonero. Sì, sì, anche quello a me risulta che col passare delle settimane, insomma, lui si sia sempre più convinto a non aspettare un'offerta che il Milan non gli ha ancora fatto. Perché lui ovviamente è uno che ha sempre scelto per sé, che conosciamo Ibra, e da qualche settimana, se prima magari voleva capire quali erano le intenzioni del Milan, credo che nelle ultime settimane abbia smesso di aspettarsi questa telefonata, sì. Del famoso ormai faccia a faccia di un paio di settimane fa, quando Agadidis ha detto questo non è più il mio Milan, che abbia messo in chiaro come la pensa, cioè no, certo. Guarda, io continuo, poi dopo non ci vediamo più. Sì, io, molto chiaro, se il piano per il futuro sarà quello di un sacco di giovani giocatori di grande prospettiva, eccetera eccetera, ma senza condottieri in campo e in spogliatoio, non la vedo una grandissima idea, posso dirti, ma questo lo ripeto tutte le volte che parlo di Milan, perché se devi centrare un obiettivo che è quello della Champions, di correre seriamente per la Champions League, e ti aspetti che un pugno di giovani, magari di talento, magari che possono esplodere, magari saranno tutti Teo Hernandez, però non mi sembra la via più convincente. Mi sembra un enorme rischio quello di andare incontro a una stagione in cui devi fare risultato, però non hai quelle anime che ti possono guidare dentro lo spogliatoio come in campo, come sta facendo ora Ibra, l'hai detto tu prima. Io la penso come te. E ti dico che, arrivo a dire questo, siccome Ibrahimovic non credo che nemmeno il padre eterno lo possa convincere a restare al Milan in questo momento, è chiaro che allora devi ragionare su qualcun altro, però il Milan deve ragionare su qualcun altro, cioè il Milan ha bisogno di un leader carismatico in campo, perché come dici tu, una squadra di ragazzi non può ambire ad alti traguardi, non nel breve periodo, e per quanto noi possiamo dire i progetti, tre anni, due anni, però tanto di fare risultato nel frattempo. Certo, perché se l'Atalanta un anno non va in Champions League, non succede il finimondo. E Milan, forse è diverso. Perché al Milan ti chiedono il conto, ti chiedono il conto della classifica alla fine della stagione. Grazie Carlo, a presto. Ciao. A voi, buona domenica. Ciao. Voglio chiudere con Pierluigi Pardo prima di salutarlo. Allora, abbiamo detto diverse cose sul Milan, ma non, cioè, questa squadra è lì, vive gli ultimi giorni di scuola e poi verrà smontata. Non so quanti tifosi del Milan siano soddisfatti di questa situazione verso l'incerto, l'incognita di un futuro pieno di giovani. Sai, questa è ogni giorno questa squadra, questo allenatore, si possono costruire un pezzo di futuro, quantomeno la possibilità di uscire per la porta grande, direbbero gli spagnoli, no? Cioè di uscire comunque a testa altissima dalla loro esperienza rossonera. È chiaro che il Milan che abbiamo visto ieri è una squadra sulla quale non ti viene voglia di smantellare, sì. Ti viene voglia di rafforzare con una serie di testi intelligenti, una squadra che sta crescendo in tutta una serie di figure chiave. Ibra sicuramente c'entra molto, ma c'è Bennacer che è cresciuto, c'è Kessie che è cresciuto, c'è Bonaventura che quando poverino non c'ha gli infortuni è un giocatore che fa la differenza, c'è Rebic che sta facendo un 2020 di livello altissimo. Ma Kier che, insomma, che da quando è al Milan sta giocando molto bene. Ma dimmi un'ultima cosa, ma tu se fossi Pioli rimarresti a Milano a fare i cambi che ti dice Ragnik in panchina? Cioè che ti diletta Ragnik dalla tribuna? Cercherei di capire se ci sono i margini, però per mantenere una sostanziale indipendenza, perché altrimenti non ha senso, non lo merita Pioli, non perché Ragnik sbagli. T'ho perso Pierluigi, faccio fatica a sentirti, ma appuntamento è domani in Tutti Convocati dalle 14 con Pierluigi Pardo. Adesso invece noi ci fermiamo un attimo e poi abbiamo anche oggi Varanatomi con Luca Marelli, con gli episodi che abbiamo visto ieri, una nuova valanga di calci di rigore sul calcio che ormai sta diventando quasi un argomento da sorridere, così tanti rigori. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli. Il brivido di VAR Anatomy in tempo reale, perché poi ci facciamo raccontare la cronaca da Dario Ricci, però la notizia è che Soriano è stato espulso e il Bologna è in 10. Luca, che stai guardando la partita? Sì, certo. Che è successo? Ciao Luca. Niente, probabilmente è partito un insulto di Soriano all'assistente l'ha comunicato all'arbitro, l'arbitro appunto, peraltro che vediamo un sacco di soprattutto di allenatori in tribuna in questo periodo. Sorprende fino a un certo punto, no? Perché per ovvie situazioni ambientali, però sono davvero tanti, la maggior parte degli allenatori passano dalla panchina alla tribuna con grande velocità. Mi sembra quasi brutto doverlo dire, ma te l'avevo detto, perché era abbastanza scontato che ci sarebbero state molte più sanzioni per parole sfuggite, perché nel caos di uno stadio pieno possono sfuggire e a volte gli arbitri sorvolano per buon senso. Questo sì, utilizzato, però chiaramente con telecamere, con microfoni a bordo campo è difficile sorvolare, anche perché ci farebbero una figura veramente varghina e soprattutto si creerebbe una parità tra chi viene sanzionato e chi non viene sanzionato. Senti, andiamo agli episodi che abbiamo visto ieri, a partire dal derby di Torino, che è stato magnificamente arbitrato, mi pare. Sì, no, Maresca è stato superlativo. Focalizzarsi su due episodi che in totale sono durati 2 secondi è veramente brutto. Secondo me è anche un po' irrispettoso di una direzione che io definirei anche magnifica. Il tocco di mano, il fallo di mano, il rigore è impossibile da vedere. In tempo di VAR ce ne sono molti di più perché le telecamere vedono e perciò il VAR serve soprattutto a questo. Il tocco di mano tenuto punibile dal VAR è sempre un chiaro ed evidente errore ed è questo un grandissimo problema per far capire che c'è una grande differenza tra un tocco di mano che è sempre un chiaro ed evidente errore e un contatto tra giocatori che invece è interpretabile. Un fallo di mano che sia con i polpastrelli o che sia un bagger è comunque un chiaro evidente errore se l'arbitro non l'ha valutato tale. Sì. Sull'episodio Quadrado Melotti, probabilmente lì paresca nella descrizione dell'episodio al VAR errati, perché c'è stato un cetra, abbiamo visto che il gioco si è fermato per un po', probabilmente ha detto di aver notato il contatto e di averlo ritenuto non punibile. A mio parere è un errore. Però sappiamo benissimo che il VAR su questi episodi, una volta che l'arbitro dice, comunica di aver visto e valutato l'episodio, non può fare null'altro. Sì. Forse questo è, a livello teorico, è un punto del protocollo che andrebbe migliorato. Certo. Allora facciamo ordine. C'è Pierluigi Pardo che è tornato per un rapido supplementare perché deve chiedere cose a Luca Marelli, però c'è anche Dario Ricci che da San Siro deve dirci cose. Eh sì, parecchie, perché l'Inter è sempre in vantaggio per 1-0, ma pochi istanti fa ha fallito un calcio di rigore con Lautaro Martinez, netto il fallo di Dykes su Candreva, Pairetto, poi adesso vi spiego anche il motivo per cui ha espulso Soriano, ha indicato con decisione il dischetto, sul dischetto appunto Martinez, la conclusione di destro respinta da Skorupski, che poi si è superato perché il pallone sulla ribattuta è finito sui piedi di Gagliardini, che ha concluso a botta sicura. Il portiere Felsinio, scatto di Reni, ha respinto anche quella conclusione. Dicevamo dell'espulsione di Soriano, perché l'ha spiegato lo stesso Pairetto in realtà, perché praticamente Soriano dopo un fallo gli ha detto sei scarso, e quindi Pairetto l'ha espulso. Adesso sulla qualità dell'arbitro decideranno i posteri, possiamo dire che almeno è permaloso, ecco, da questo punto di vista. Al 58esimo, da non dimenticare che in occasione della quando ancora le due squadre erano in parità numerica, c'è stato un palo clamoroso colpito da Barro, che si è liberato ai limiti dell'area con un tunnel ai danni di Brozovic, e poi di destro ha colpito il palo più lontano della porta difesa da Handanovic. In sintesi, siamo al 65esimo di gioco, 1-0 per l'Inter grazie alla rete di Lukaku al 22esimo, ma calcio di rigore fallito da Martinez un paio di minuti fa, e Inter in superiorità numerica dopo l'espulsione al 57esimo di Soriano. Pierluigi, rieccoci. Sì, no, volevo ridare un po' di dignità al mio telefono, alla mia linea telefonica. Sentito il discorso di Luca, sono curioso di sentirlo su Lazio Milan, che mi è sembrato un altro ottimo arbitraggio, con secondo me il capolavoro del vedere che la mano di Radu era quella sinistra e non quella destra. A destra non sarebbe stato calcio di rigore assolutamente, perché il braccio era lungo il corpo. La mancata protesta di Radu credo che fosse un indizio molto significativo, però è stato bravo Calvarese. Sì, da Calvarese ieri ha offerto un'alta prestazione di altissimo livello. Negli ultimi due anni non ha sbagliato praticamente una partita. Da quando ha cominciato a sentire la fiducia dell'organo tecnico nuovo, nel caso Rizzoli, negli ultimi due anni, e il terzo è questo, non ha veramente sbagliato quasi nessuna partita. Ieri sera è stato veramente eccellente. Tutto ha finito una partita con due ammoniti, una partita che comunque era sentita e con un risultato che pochi si aspettavano, perlomeno nelle dimensioni. Niente da dire, sul calcio di rigore è stato bravissimo, ha interpretato benissimo l'episodio, i difensori ormai lo sanno che in questi casi il rigore è automatico. Una cosetta, così possiamo anche puntualizzarlo, perché non è mai abbastanza. Ieri un commentatore, se non mi ricordo chi era, però una persona che non molto ha scritto: questo era rigore come tutti i rigori di superficie di mano anche nel 1970. Perché? Perché in realtà non è cambiato nulla, semplicemente 30 anni fa non c'erano tutte queste telecamere, questi falli di mano passavano in sordina perché non si vedevano proprio. A volte si vedevano, se c'era qualche protesta, se con un episodio di questo genere si concretizzasse su un campo di eccellenza, probabilmente nessuno se ne accorgerebbe. È chiaro che inseriamo 30 telecamere, sono molto più visibili, e calci di rigore tratti di utilizzo del VAR, è ovvio. L'ovvia conseguenza, Luca, è che il numero complessivo dei rigori sta diventando a tratti imbarazzante. Imbarazzante, sono d'accordo. Allora, qua bisogna, secondo me bisogna comunque fare un discorso molto più ampio, perché l'ultimo anno di il campionato senza VAR registrò 132 calci di rigore. L'anno successivo, 17-18, il primo con VAR 120, poi 122, quest'anno siamo già a 148 con quello di oggi. 148 rigori con 86 partite da giocare sono un'enormità. E secondo me non dipendono dai falli di mano, perché i falli di mano sono circa una quarantina di rigori. Il problema è che vengono assegnati troppi rigori per quelli che definisco contattini. Cioè, sono d'accordissimo. In area di rigore ormai i giocatori non entrano per creare un'occasione da rete, entrano per subire un fallo, e questo è un problema, ed è un problema che comunque è ascrivibile anche agli arbitri, perché tra virgolette ci cascano troppo spesso, perché se per ogni contattino i giocatori vanno a terra e fischiano il rigore, allora abbiamo un problema, perché se in terra i rigori totali sono 80 con 380 partite, cioè 100 partite in più, evidentemente c'è qualcosa che non va. Attenzione, perché questa cosa ci può anche mettere in difficoltà quando poi andiamo in Europa, no? Beh, chiaro. Come metro arbitrale, sono d'accordissimo. Penso a Brescia-Genoa l'altro giorno, quel contatto, quel tentativo di saltare testa a testa, insomma, mi sembra che ci siano veramente troppe situazioni nelle quali io sono di quella scuola che un rigore deve essere una cosa importante, cioè deve essere un contatto vero. Sui falli di mano è chiaro che aver tolto completamente l'elemento della volontarietà e aver fatto delle fattispecie più legate al movimento più o meno congruo, secondo me un pochino ha inciso, anche se poi è giusto dire che quella era rigore pure nel passato, nel senso che comunque quando c'è un aumento di volume così evidente, sia pure involontario, come era certamente involontario quello di Radu ieri, il rigore si dà. Quindi, insomma, sì, però è una questione non è questione di VAR o di non VAR, è questione culturale, spiega Luca Marelli. Cioè, qui in Italia ci troviamo alle prese con una slavina di rigori, perché se li vanno furbescamente a cercare, eccetera, eccetera, e poi Pierluigi ha ragione, poi vai in Europa e strilli. Ah, ma quello lì da noi lo danno o da noi non lo danno, Luca? Sì, no, il problema è anche un altro, secondo me, che anche nei commenti di alcuni, non di tutti, perché qua per esempio ci troviamo su questa questione dei calci di rigore per contattini, però purtroppo non si valuta l'entità di un contatto, si valuta se c'è o meno il contatto. Se dovessimo valutare tutto ciò che avviene in area di rigore sulla base di un contatto che c'è, una trattenuta che c'è, una spintarella che c'è, e allora se dovessimo valutare tutti quegli episodi, i rigori non sarebbero 148, sarebbero 300, 400. Certo. La potremmo finire fuori direttamente così, ogni partita. Però c'è una questione che va sottolineata. Il solito lo sa che questo è un problema. E io sono convinto, poi lo vedremo l'anno prossimo, che nella prossima stagione i calci di rigore saranno molti meno. Perché sono dell'idea che in questo momento non si può certamente cambiare il metro, perché altrimenti... Beh, chiaro, non c'è dubbio. Passato. Su questo non c'è mentre dubbio. Invece sull'anno prossimo sono sicuro, posso scommetterci, che i rigori saranno molti di meno. E viene da augurarselo. Perché lo spirito del gioco va in un'altra direzione. Sì. Se questo tipo di sentimento, di pensiero ce l'abbiamo tutti, io credo ce l'abbiano anche gli arbitri poi in fondo, perché io non credo che, così come sul VAR, io credo che gli arbitri si renderanno conto che questo protocollo in alcune circostanze non è corretto, perché abbiamo alzato l'asticella dell'aspettativa delle persone, giustamente, quindi quando poi il protocollo diventa un ostacolo, si frappone e diventa, invece che un'occasione per andare a scoprire esattamente quello che è successo, un vincolo burocratico che ti impedisce di vederlo, si ha ancora di più la percezione di un qualcosa di manipolato, che poi manipolato non è. L'esempio di Lazio Fiorentina la settimana scorsa, di quel calcio di rigore, l'abbiamo detto mille volte. Se l'arbitro è sicuro di aver visto in quel modo, il protocollo gli dice che non lo può andare a vedere, però rimane nella testa delle persone che vedono quella cosa quantomeno il dubbio. Allora, da questo punto di vista dobbiamo, secondo me, un po' aiutarci. Cioè, o si va in una direzione che è la direzione di aumentare l'area di influenza del VAR, o la si restringe, ma in maniera chiara e precisa. Sono della prima ipotesi, perché insomma in un'epoca ipertecnologica come la nostra, come si fa a prescindere, no, da quello che milioni di persone vedono in tempo reale e prendere una strada diversa, trincerandosi dietro ad aspetti formali, insomma è difficile. No, ma è questione culturale e anche di gestione del mezzo. Grazie ragazzi, grazie Luca, ci sentiamo domenica prossima con te naturalmente. Ciao, Pierluigi Pardo, con te ci sentiamo invece domani alle 14, e adesso ascoltiamo il traffico subito dopo Flash da San Siro con Dario Ricci e una chiacchiera dagli Stati Uniti con Simone Sandri. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Saluto subito Simone Sandri da New York. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Ciao. Però mi collego subito con Dario Ricci da San Siro, un po' più vicino rispetto a qua, per sentire come sta andando un flash. 74esimo di gioco, è arrivato il pareggio del Bologna con Giuvara. C'è stata una rimessa laterale dopo che lo stesso Giuvara, tra l'altro, aveva impegnato Handanovic, che aveva respinto sul diagonale del giovane attaccante bolognese, entrato al 65esimo insieme a Bagna Palacio nel Bologna. Ebbene, rimessa laterale, un buco della difesa interista, il pallone è arrivato a Giuvara al limite dell'area, che di sinistro ha battuto Handanovic. Un Bologna che da quando diciamo Lautaro, dall'espulsione di Soriano di fatto si è svegliato e ha deciso di giocarla fino in fondo questa partita per provare a fare lo scherzetto all'Inter, e al momento ci sta riuscendo. Ultima nota sul calcio di rigore: è stato Lukaku a lasciarlo con un gesto magnanimo a Martinez, risultato che non ha premiato la scelta. Staremo a vedere nel dopogara cosa ne penserà Conte. Sì, va bene con i gesti magnanimi, però Lukaku certe volte, forse in questo caso ha esagerato. C'era un grande allenatore di pallacanestro, Asa Nikolic, che diceva, che parlava di squadre brave a riempire il secchio di latte e poi a rovesciarlo con un calcio, cosa che è abituata a fare abbastanza spesso anche l'Inter. Dunque Simone, stiamo per andare metaforicamente nella bolla dell'NBA, no? Ci siamo. Sì, io, per quanto mi riguarda, anche non metaforicamente, perché andrò anch'io nella bolla, per cui sì. Quindi faremo collegamenti dalla bolla. Esatto, si partirà il 30 luglio con le partite di regular season. Ci saranno tre amichevoli, le squadre partiranno per Orlando martedì, mercoledì e giovedì, saranno scaglionate. C'è anche un protocollo per i giocatori che non sono al seguito della squadra ma che si incontreranno con le squadre ad Orlando. Dovranno passare due test, dovranno essere negativi per due test prima di potersi unire ai compagni. Il tutto sembra abbastanza, l'organizzazione è veramente dettagliata, c'è un manuale di 110 pagine che i giocatori hanno ricevuto e si devono praticamente studiare per le cose che possono e non possono fare, e niente, potranno rimanere in questa bolla, poi ricomincerà la regular season, ci saranno 8 partite di regular season, poi ci sarà il cosiddetto play-in game, ci sarà una sfida tra l'ottava e la nona squadra per accedere all'ultimo posto di playoff, e poi incominceranno a partire i playoff. Allora, in America la situazione situazione sanitaria è ancora molto molto difficile, questo è un dato di fatto. Un altro dato di fatto, anzi meglio una sensazione, è che molti giocatori NBA abbiano pochissima voglia di chiudersi dentro a quella bolla. Ci sono già diversi renitenti alla leva, cioè giocatori che dicono no, noi non veniamo per svariati motivi e svariate ragioni. L'immagine che ne esce non è esattamente scintillante di molti giocatori NBA. Sì, sono d'accordo, diciamo, in parte, perché è vero che alcuni giocatori, non sono poi così tanti per adesso i giocatori che hanno deciso di non andare, sono 6 in questo momento, che hanno deciso di non andare per ragioni legate a motivi personali, per esempio motivi di famiglia o alla paura del coronavirus. Sì. Poi ci sono alcuni giocatori che hanno, tipo DeAndre Jordan, che ha contratto il virus, che ha deciso che non andrà ad Orlando. E più che altro il problema, secondo me, sarà una volta che i giocatori saranno nella bubble, perché tecnicamente e Silver l'ha chiarita questa situazione, non ci saranno i militari alla porta a proibire, certo, i giocatori per uscire dalla bubble, per cui i giocatori avranno la disciplina per rimanere nella bubble, per non provare ad uscire, provare a rientrare senza poi con i rischi che questo ne può comportare. Ovviamente se dovessero rientrare una volta che sono usciti dovranno poi rimanere in quarantena, dovranno poi passare dovranno essere negativi per due test per poter poi unirsi ai compagni, però l'idea di fondo è che magari qualcuno dopo un mese o un mese e mezzo di solitaria bubble possa decidere di fare magari una serata ad Orlando. Orlando non è Las Vegas, però l'idea di fondo potrebbe essere questa, e quello ovviamente sarebbe un problema, soprattutto anche dal punto di vista delle PR per l'NBA, sì, una situazione del genere. Ma sai, si tratta di un richiamo alla grande responsabilità professionale, perché è inutile stare a fare della demagogia sui contratti, su quanto guadagno, su queste cose qui, ma anche dal punto di vista dell'immagine si tratta di un richiamo ad un periodo difficile ma di grande responsabilità professionale. Poi mi pare siano giocatori americani che, a prescindere dalla pandemia, insomma abbiano altre idee anche per altre ragioni, movimento Black Lives Matter, quanto sta succedendo negli Stati Uniti, insomma qualche voce discordante mi pare di cogliere da questa parte. No, sono assolutamente così, e infatti le negoziazioni per la bubble sono state complicate. I giocatori avevano fortemente chiesto, per esempio, la presenza di almeno dei familiari stretti, dei figli o del proprio partner, cosa che non è stata accordata dall'NBA almeno fino al secondo turno della postseason, quando poi ci saranno meno squadre e quindi la bubble potrà riempirsi un po' di più, quindi potranno arrivare le mogli e i figli, però fino al secondo turno i giocatori saranno da soli. È un po' un paradosso, e scherzando con alcuni giocatori dicevo anche che questo è praticamente quello che succede nello sport in Italia o in Europa, nel calcio, nel basket, quando c'è un ritiro. Loro praticamente vivranno, certo, per la prima volta cosa vuol dire fare il giocatore professionista in Europa, perché è sempre uno dei grandi temi quando giocatori, per esempio, di calcio e giocatori NBA si incontrano, le grandi differenze di come vengono gestiti per partita, la libertà che hanno i giocatori NBA, per esempio, di uscire la sera prima di una partita, di andare a cena fuori, rispetto ai ritiri degli europei. Certo. Grazie Simone, a presto. Grazie a voi. Ciao. Ci attrezziamo per i collegamenti che ad agosto, settembre, ottobre, campionato NBA finirà con metà ottobre, grosso modo, e dalla bolla ci racconterà diverse cose Simone Sandri. Intanto io chiudo il programma con Dario Ricci da San Siro invece. 80° di gioco in questo istante, il Bologna è in vantaggio, contropiede orchestrato sempre da Juvara, il pallone arriva a Musa Barrow che di sinistro batte imparabilmente Handanovic in uscita, quindi Bologna è in vantaggio per 2-1, mentre è in parità il numero dei giocatori in campo, perché ci eravamo lasciati nel precedente collegamento ripercorrendo l'espulsione di Soriano. Ebbene, pochi minuti fa, al 77° fallo di Bastoni sullo stesso Juvara, che veramente ha spaccato la partita, doppia ammonizione ed espulsione anche per l'interista, quindi 10-10, ma il Bologna in questo momento è in vantaggio per 2-1 a San Siro, Carlo. Quindi rimane forte la sensazione che la Juventus non si iscriverà agli ultimi 7 giorni, cioè ai 7 giorni che prima Pardo ha dato al campionato. L'Inter non si iscriverà naturalmente, con buona pace della Juventus. Ci fermiamo qui, torniamo domani alle 14. Io ringrazio Edoardo Lavezzani in redazione e ora Valeria Bernardi in regia, prima di lei Roberta Frisani. Tutti convocati domani alle 2. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.